Sì, allora manca ancora qualcuno. No, l'altra cosa che mi stimolava Marco mentre parlava è vero, cioè tutto il discorso non è la prima narrazione che ci viene fatta da parte di agricoltori sulla storia, ad esempio, della carne col grasso giallo. Sono processi lunghi, sono processi che necessitano alfabetizzazione, conoscenza, la faccia dell'agricoltore col suo prodotto davanti a migliaia di persone costruisce questa cosa qua. Noi l'abbiamo vista con la terratrema a Leoncavallo, e negli anni esponenzialmente, la cultura rispetto al cibo, rispetto al vino è aumentata, e questa conoscenza reciproca tra il produttore e il cosiddetto consumatore, quindi il coproduttore, che è stata una cosa che noi abbiamo vissuto e poi coniato a livello filosofico questo concetto, ci ha poi permesso di capire che era quella la strada da percorrere. È necessario assolutamente sviluppare questo tipo di rapporto tra il produttore agricolo e diciamo così il cittadino, il consumatore, perché quando una persona poi capisce che quella carne è migliore di quella dell'S lunga, quando stappi una bottiglia di vino e capisci che cosa c'è dentro quella bottiglia di vino, cioè il sudore del vignaiolo, c'è cioè la storia di un territorio, allora sì, si costruisce comunità, si costruisce relazioni, si costruisce economia, si co costruisce un processo a lungo termine, un'idea di sviluppo diversa. Questa cosa ci tenevo a dirla perché l'abbiamo vissuta concretamente con dei progetti e con delle progettualità, e tutti gli agricoltori, molti degli agricoltori che ci sono qui, l'hanno vista. Sicuramente non l'hanno vista nei padiglioni della fiera di Abbiategrasso, purtroppo, anche se continua ad esserci questo marchetto. Scusate, mi sale ancora la bolla, però siamo così. Luca Sala, voglio Luca Sala, un altro protagonista della Terra Trema.